Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati è in Svizzera. Strano come la storia di cui parliamo oggi si sviluppi per lo più su questo territorio neutrale, quasi come se lo spirito del tempo avesse scelto anche geograficamente un luogo lontano dai conflitti, inviolabile, in un certo senso sicuro, per poter dar l'avvio al suo svolgimento. Oggi parliamo di mondi apparentemente inconciliabili e delle capacità di due uomini eccezionali nel trovarvi un collegamento. Parliamo di numeri, di fisica, di atomi, ma anche di sogni, di inconscio e di anima. Siamo nel villaggio di Kesswil, sul lago di Costanza, nel cantone svizzero di Turgovia. Il 26 luglio del 1875, sotto il segno del leone, nasce Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. La gravidanza non è stata una delle più tranquille per la madre Emily, terrorizzata di non portarla a termine, visti i 3 aborti spontanei avuti precedentemente. Ma la vita, nel caso del piccolo Carl, ha avuto la meglio. Il padre Paul è un pastore protestante con una forte passione per la cultura, cosa che trasferirà al figlio. Le condizioni economiche della famiglia non sono delle migliori. La madre, inoltre, dopo le gravidanze mancate, vive in un suo mondo popolato da spiriti, fantasmi, cosa che graverà sulla stabilità del matrimonio e che avrà una certa influenza anche su Carl. Il rapporto che lui ha con i genitori è buono, almeno quello col padre. Con la madre, come racconta lui stesso in un'intervista del 59, le cose stanno diversamente. Naturalmente si ha sempre più confidenza con la madre, ma se si parla di sentimenti personali, avevo un miglior rapporto con mio padre, un uomo prevedibile, che non con mia madre. Lei è sempre stata qualcosa di molto problematico per me. La madre, per qualche strano motivo, è più difficile da avvicinare, da comprendere. Forse proprio per la sua tendenza a vivere di ricordi tra i fantasmi dei suoi figli mai nati. La situazione si fa più pesante soprattutto durante la notte. Ho capito che avevo paura di mia madre, ma non durante il giorno. Di giorno mi era nota e prevedibile, ma di notte avevo paura di mia madre. Carl è un bambino curioso ma solitario. I suoi compagni di giochi sono gli oggetti, la natura, il mondo che lo circonda. Un giorno decide di intagliare all'estremità di un suo righello di legno la testa di un omino che poi dipingerà come un anziano, una specie di vecchio saggio. Senza saperlo, Carl si è costruito un totem, uno degli oggetti di culto più antichi dell'umanità. Lui sente che il mondo gli parla, che esiste qualcosa al di là della sua storia personale che lo coinvolge, qualcosa che appartiene a tutti e da cui tutti possono attingere. Si accorgono fin da subito che ha un'intelligenza eccezionale, tant'è che la scuola lo annoia terribilmente. Carl però, quando è a casa, non perde occasione di leggere i libri che trova nella biblioteca del padre. La sua sete di conoscenza e la passione dello stesso padre per la cultura sono il suo pane quotidiano. Legge romanzi di avventura, ma anche Così parlò Zarathustra di Nietzsche e il Faust di Goethe, che, come ricorderà lui stesso, gli fecero un'enorme impressione. La sua presa di coscienza più importante risale alla sola età di 11 anni. Avevo 11 anni. Improvvisamente, mentre andavo a scuola, emersi da una specie di nebbia. Fu proprio come se prima camminassi nella nebbia e adesso fossi emerso e potessi dire: io sono. I am what I am. Io sono ciò che sono. E poi pensai: ma cos'ero prima? E allora capii che ero sempre stato in una nebbia, incapace di distinguere me stesso dagli oggetti. Ero sempre stato un oggetto tra tanti altri oggetti. Quella nebbia, fenomeno atmosferico tangibile che certamente il piccolo Jung conosce benissimo, quel giorno lo fa riflettere su qualcosa di assolutamente intangibile, qualcosa che sta nella sua testa. Il mondo esteriore gli parla una lingua che il suo mondo interiore può comprendere ed è solo l'inizio. Nel frattempo non solo la sua mente è la più grande delle scuole, ma anche il suo corpo. A soli 12 anni è già un ragazzotto ben piantato, più forte e più grosso dei suoi compagni di scuola. Yes, I was pretty strong. And you know... Sì, ero piuttosto forte. E poi sono cresciuto in campagna, con figli dei contadini. Era un tipo di vita rude. Beh, so che sarei stato capace di violenza. Ne avevo un po' paura e cercavo di evitare le situazioni critiche perché non mi fidavo di me stesso. Una volta fui aggredito da 6 o 7 compagni. Non ci vidi più. Ne afferrai uno e lo feci girare intorno per le gambe. Ne buttai a terra 4. Allora ne ebbero abbastanza. Da quel momento, dietro ogni rissa, si sospettava ci fossi io. Non era vero. Ma avevano paura. E non fui più aggredito. Le difficoltà nei rapporti coi compagni di scuola si esauriscono con il liceo, mentre quella con i professori prosegue anche dopo l'università. Il carattere di Carl è forte. Lui è sicuro di quanto vale e del valore delle sue intuizioni. Sa che lo porterà a un certo punto della sua vita a prendere le distanze anche da un altro dei suoi grandi maestri, Sigmund Freud. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die. Jung ha delle cose da dire e sa come dirle. Lo dimostrano i suoi studi e le sue scoperte, che hanno illuminato il nostro moderno concetto di psicologia e che dopo l'incontro con l'altro protagonista di oggi getteranno le basi per una nuova visione del mondo. Ma andiamo per gradi. La formazione nella vita di Jung ha un ruolo fondamentale. A partire dalla scelta dell'università, che è dettata per lo più da esigenze economiche, vista la condizione della famiglia. L'unico ateneo che può prendere in considerazione è quello di Basilea, perché gli consente di frequentare i corsi stando a casa con i genitori. Peccato che manchi proprio la facoltà che avrebbe tanto voluto fare, quella in archeologia. La scelta ricade quindi su medicina. Come prima scelta avrei voluto fare l'archeologo, assirologia, egittologia, qualcosa del genere. Ma non avevamo soldi, erano studi troppo costosi. La mia seconda passione era per la natura, in particolare per la zoologia. E quando incominciai l'università mi iscrissi alla cosiddetta facoltà di filosofia seconda, cioè scienze naturali. Ma ben presto vidi che l'unica carriera che mi si prospettava era quella dell'insegnamento. Jung non vuole fare l'insegnante, visti anche i cattivi rapporti con la categoria nella sua carriera scolastica. Allora mi venne in mente che mio nonno era stato medico e che inoltre studiando medicina potevo studiare scienze naturali. Un medico ha sempre delle prospettive. Beh, può aprire uno studio, può scegliere i suoi interessi scientifici. Ad ogni modo avrei avuto più opportunità che facendo il maestro di scuola. E poi mi attraeva l'idea di fare qualcosa di utile per l'umanità. La vera opportunità di essere utile all'umanità attraverso la cura della mente e non solo quella già sondata e assodata del corpo arriva all'improvviso. Quando Jung ha un anno dalla laurea si trova a un bivio e sente che la sua strada è tra i misteri della psiche, dove natura e spirito, come scriverà lui, entrano in collisione. Avevo quasi terminato gli studi e non sapevo ancora bene cosa volevo fare. Quando mi si presentò la grande occasione di seguire un mio professore che aveva ottenuto un incarico a Monaco e mi voleva come assistente. Ma ecco che, mentre preparavo l'ultimo esame, mi capitò in mano un libro di psichiatria. Fino a quel momento non avevo dato molta importanza alla psichiatria, perché il nostro professore non era abbastanza interessato. Cominciai a leggere l'introduzione di quel libro. Si dicevano certe cose sulla psicosi come disturbo della personalità. Questo fece centro. In quel momento capii che dovevo fare lo psichiatra. Mi batteva forte il cuore e quando dissi al mio professore che non sarei andato con lui ma che avrei studiato psichiatria, lui non riusciva a capirlo e nemmeno i miei compagni, perché all'epoca la psichiatria era considerata niente, niente del tutto. È il 1900. Sigmund Freud, che ha 20 anni più del nostro protagonista, ha già scritto l'interpretazione dei sogni. Jung ovviamente l'ha già letta, così come si è già informato sugli studi relativi all'isteria che lo psicanalista di Vienna ha condotto insieme al fisiologo Josef Breuer. Celebre in quel periodo è anche l'ospedale parigino della Salpêtrière, dove grazie al neurologo francese Jean-Martin Carchot tutti i medici europei si recano per approfondire gli studi sull'epilessia e l'isteria, cosa che non mancherà di fare anche Jung. Insomma, i tempi sono maturi per accogliere anche Carl, che nella psichiatria vede molto di più. Io ci avevo visto una grande opportunità di conciliare certe contraddizioni che erano in me, e cioè il fatto che oltre alla medicina e alle scienze naturali, io avevo sempre studiato la storia della filosofia e discipline del genere. Era come se tutto a un tratto le due correnti si congiungessero. Nel dicembre del 1900 Jung, all'età di 25 anni, entra nella clinica psichiatrica di Burghösli. Visti i suoi risultati accademici brillanti, è il direttore della stessa, Eugen Bleuler, studioso di fama mondiale e studioso della schizofrenia, che lo vuole con sé. L'ospedale è a un centinaio di chilometri da Basilea, sul lago di Zurigo. Quello stesso anno, Albert Einstein conclude i suoi studi al Politecnico di Zurigo e prende la cittadinanza svizzera. Mentre nella vicina Vienna, in una prestigiosa famiglia di scienziati, nasce l'altro protagonista di oggi. Il destino comincia da qui a giocare le sue carte. Scienza e psicologia scorrono copiose in questa parte del mondo. Sembra quasi che la vita le metta a forza nello stesso luogo geografico, in attesa di vederle familiarizzare in futuro in un luogo più alto, quello dell'anima. Sei nell'anima. Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. I primi anni alla clinica sono decisivi per la crescita professionale di Jung. Diventa in breve l'assistente di Bleuler e comincia ad insegnare all'Università di Zurigo. Le sue lezioni trattano di psichiatria, ma anche di misticismo, di storia, di isteria e di dinamiche familiari, con approfondimenti soprattutto sui problemi emotivi delle donne. La moglie, Emma Rauchenbach, una ragazza appartenente a una delle famiglie svizzere più facoltose, sarà sempre accogliente e comprensiva nei confronti delle attenzioni che le sue pazienti, le signore in pelliccia, come le chiamerà lui, dedicano al giovane dottore. Carl è un bell'uomo, è alto, ha baffi intriganti e occhiali che toglie e mette a seconda dell'importanza della discussione che sta tenendo, e il profumo della sua pipa invade ogni stanza in cui si trova. Non è facile farsi guardare dentro l'anima, farlo scavare nel profondo di un disagio senza che il suo intervento non vada a toccare anche il cuore. L'importanza che Jung dà alle donne è però di altra natura, come ci racconta Filomena Rosiello, psicologa junghiana che sul medico svizzero ha tenuto varie conferenze. L'importanza di Jung anche rispetto alle donne qual è stata? Che fino ad allora nessuno si era preoccupato di riconoscere alle donne una capacità pensante. Quando lui fa la sua teoria su anima e animus, dicendo che nell'uomo esiste una parte maschile, nel femminile, e nelle donne esiste una parte maschile, in realtà poi, precisando il concetto, precisando quello che vuole dire nel corso degli anni, lui sottolinea che le funzioni femminile e maschile appartengono a tutti gli esseri umani, e quindi la donna viene a quel punto automaticamente considerata in una maniera diversa, tant'è che lui ha una serie di seguaci, studiose, che poi hanno parlato del suo pensiero, lo hanno sviluppato e lo hanno anche rielaborato, che sono tutte donne, sono la von Franz, sono la Wolf, Emma Jung stessa, che è sua moglie, e quindi un po', cioè, indubbiamente Jung era un personaggio affascinante e quindi sarà anche piaciuto come uomo, però la sua relazione col femminile è stata anche una relazione diversa da quella che era la relazione che c'era fino ad allora con le donne. Jung quindi è un innovatore. Il femminile conquista il suo spazio accanto al maschile. Le relazioni con le pazienti sfociano però spesso anche in relazioni sentimentali. Eppure c'è dell'altro per lui. celebre la relazione sia personale che professionale con Sabine Spielrein, una giovane ragazza russa, figlia di un ricco mercante ebreo, affetta da una grave forma di isteria, che nel 1904 entra in cura da lui. L'influenza sul pensiero della bella Sabine è indubbia. Una volta guarita, infatti, deciderà di studiare medicina e, rientrata in Russia, diventerà una grande psicologa, dando un enorme contributo alla pedagogia moderna, come racconta bene Roberto Faenza nel suo toccante film Prendimi l'anima. Mettetele giù, ho detto! Brava! Silenzio! Silenzio! Lo vede che cosa combina la sua paziente, dottor Jung? La dica di smettere! Signorina Stirrai, per favore. Con piacere, dottor Jung. Le prime divergenze di metodo cominciano a farsi notare. Anche quelle con Freud, che nel frattempo Jung ha avuto modo di conoscere personalmente, saranno presto insanabili. All'inizio i due si piacciono molto, diventano persino amici. La loro prima conversazione si tiene a Vienna e in quell'occasione parlano per ben 13 ore di fila. Ma come ricorda Carl, le differenze col padre della psicanalisi sono anche di carattere personale, non solo di pensiero. Lui era una persona dalla natura complessa. Mi piaceva molto. Ma scoprì ben presto che quando pensava una cosa, per lui era conclusiva. Mentre io ero pieno di dubbi su tutto e così era impossibile discutere tutte le cose a fondo. Lui non aveva nessuna preparazione filosofica in particolare. Mentre io studiavo Kant e ci ero immerso. E quella era una cosa troppo lontana da Freud. Pur concordando con Freud sull'esistenza dell'inconscio personale, frutto delle esperienze vissute dal singolo individuo, Jung comincia a sospettare che ci sia anche un inconscio più profondo. Entrambi ricorrono all'analisi dei sogni dei pazienti, ma mentre per Freud i sogni servono a sondare il precipitato delle vicende personali dei pazienti, essendo l'inconscio un deposito di emozioni, pensieri e ricordi rimossi, Jung si interessa ai sogni in quanto miniere di significati allegorici, comuni all'intera umanità. Io fin dall'inizio avevo una reservatio mentalis. Non condividevo parecchie delle sue idee, principalmente il suo approccio esclusivamente personale e la sua noncuranza per le condizioni storiche dell'uomo. Noi prendiamo largamente dalla storia. A formarci è l'educazione, l'influenza dei genitori, il che non è sempre e soltanto personale. I genitori stessi hanno pregiudizi e sono influenzati da idee di origine storica o da quelle che si chiamano le dominanti. E questo è un fattore decisivo in psicologia. Noi non siamo né dell'oggi né di ieri. Siamo di un'era immensa. Il metodo di Jung piace a tutti. Questo inserimento nell'analisi di qualcosa che precede la storia personale di ognuno, ma che va a pescare nel mondo, nell'anima del mondo, nelle filosofie di altri popoli, nella mitologia, è certamente intrigante, senza per questo dimenticare la base scientifica. La rottura avverrà dopo la pubblicazione nel 1912 del libro di Jung Simboli della trasformazione, dove il medico svizzero comincia a introdurre il concetto di inconscio collettivo e a prendere le distanze dalla dottrina del maestro viennese, che di contro lo accusa di occultismo. Comincia inoltre a chiamare la sua analisi della psiche psicologia analitica, per differenziarsi una volta per tutte dalla psicanalisi freudiana. La prima guerra mondiale è alle porte e Jung decide di lasciare la clinica per ritirarsi nella sua casa sul lago di Zurigo, da cui emergerà solo alla fine del conflitto. Sono gli anni in cui comincia a riflettere profondamente sull'inconscio e sugli archetipi, immagini appartenenti all'umanità intera, forme preesistenti del pensiero attraverso cui catalogare la realtà. Principi di organizzazione che permettono di ricavare conoscenza dall'analisi delle percezioni del mondo esterno, svelandosi nei sogni. Pale to color your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Destini incrociati. Destini incrociati oggi a Zurigo. La prima guerra mondiale è appena finita e Carl Gustav Jung ha da alcuni anni preso le distanze dal maestro Sigmund Freud e dalla psicanalisi, dando il via alla psicologia analitica. La sua dottrina si basa sulla presenza, al fianco dell'inconscio personale, anche di un inconscio collettivo, popolato di archetipi che preesiste l'individuo e che mette in contatto il singolo con l'anima del mondo. Le accuse che gli verranno rivolte sono spesso quelle di occultismo. Preoccupazione di Jung è però quella di dare una base scientifica al suo metodo, cercando un legame tra psiche e natura, interesse che peraltro è anche di molti fisici dell'epoca. Jung, dopo aver notato che i suoi pazienti, uomini e donne, europei e americani, producevano nei loro sogni fantasie e simboli simili, spesso identici a simboli presenti nelle religioni dell'antichità, nei miti, nelle fiabe, nei culti esoterici come l'alchimia, decide di approfondire questi studi e addirittura di viaggiare alla scoperta di tribù e popolazioni lontane. Il periodo storico, nel frattempo, dal punto di vista scientifico, è piuttosto fecondo. Nel 1915 Einstein presenta la sua teoria generale della relatività e afferma che il mondo in cui viviamo non ha più tre, ma quattro dimensioni, poiché oltre alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza esiste la dimensione temporale. It follows from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations. Questo passaggio dal 3 al 4 è solo l'inizio di un processo di rivoluzione che colpirà anche l'altro protagonista di oggi, che muove i suoi primi passi proprio in questo clima, quando l'impostazione positivistica ha una battuta d'arresto e si cerca una realtà situata oltre l'apparenza. È Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli. Nell'arte compaiono cubismo e astrattismo con Picasso e Kandinsky. Nella letteratura James Joyce dà il via a una scrittura caratterizzata dal flusso di coscienza. In quello stesso periodo Pauli, nel prestigioso ginnasio Döblinger di Vienna, si diploma con lode. Quando nel 1921 pubblicherà il suo articolo sulla relatività per l'Enciclopedia delle Scienze Matematiche, lo stesso Einstein ne rimarrà impressionato scrivendo così in una recensione. Nessuno che studi quest'opera matura, di grandiosa concezione, crederebbe che l'autore sia un uomo di soli 21 anni. Ci si chiede che cosa ammirare di più, se la comprensione psicologica dello sviluppo delle idee, la sicurezza delle deduzioni matematiche, la profondità dell'intuizione della fisica, la trattazione completa degli argomenti o la sicurezza della valutazione critica. Ebbene sì, l'oggetto di tante lusinghe da parte del genio indiscusso di tutti i tempi, Albert Einstein, è un uomo di soli 21 anni. Certamente l'ambiente in cui è cresciuto Pauli ha contribuito a far sbocciare in lui l'interesse per la scienza. Figlio di un chimico dell'Università di Vienna, conosciuto a livello internazionale, suo padrino è Ernst Mach, famoso filosofo e fisico da cui prenderà il suo secondo nome. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti che possono servire per stimolare l'intelligenza di un bambino peraltro molto dotato. A scuola, per combattere la noia, Pauli legge di nascosto i più recenti saggi di Einstein. Arrivato alla maggiore età, decide di trasferirsi a Monaco per seguire uno dei pionieri dell'entusiasmante campo della fisica dei quanti, Arnold Sommerfeld. Il periodo dell'università è per Wolfgang un assaggio di quello che la vita ha in serbo per lui, soprattutto per l'aspetto extrascolastico, che lo condizionerà non poco. Il cinema muto americano ha appena realizzato una delle prime versioni del Dr. Jekyll Mr. Hyde, tratto dal romanzo di Stevenson. E sembra quasi che questa dualità abbia trovato spazio nella vita reale di un giovane fisico europeo. A Monaco, infatti, Pauli frequenta volentieri il quartiere bohemien di Schwabing, pieno di bar, caffetterie, birrerie. L'imprevedibile e calda vita notturna gli interessa almeno quanto quella fredda e indiscutibile della fisica. Come ricorda il professor Arthur Miller, studioso presso l'University College di Londra, che sul fisico ha tenuto una conferenza al CERN di Ginevra. Pauli cade vittima di un mondo sommerso, fatto di droga, alcol e prostituzione. Più beve e più diventa socievole. Lo si vede spesso fuori dai bar con il bicchiere pieno. È come una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, vive due vite. Tutto questo perché aveva problemi nella relazione con le donne e col sesso in generale. Come scriveva lui stesso a un amico, ho notato che il vino ha un ottimo effetto su di me. Dopo la seconda bottiglia di vino o di champagne, scrive, in genere uso i modi del compagnone, cosa che non faccio mai quando sono sobrio. E in tali circostanze può succedere che si produca un'enorme impressione sulle persone che mi stanno intorno, in particolare se sono donne. La scissione tra la vita diurna con la serenità del lavoro e quella notturna nel sottobosco cittadino comincia a influire sulla sua personalità. In quello stesso periodo Jung sta elaborando il nuovo lessico per la sua psicologia analitica e pubblica un libro dal titolo Tipi psicologici, in cui si descrive, sulla scorta della sua esperienza clinica, l'esistenza di due opposti atteggiamenti che determinano il modo in cui le persone reagiscono al mondo e a loro stesse. L'introversione e l'estroversione, termini coniati da lui e ormai entrati a far parte del lessico comune. Accanto a questi, quattro funzioni che orientano la coscienza: il pensiero, il sentimento, la sensazione e l'intuizione. Ogni persona è la miscela dei due atteggiamenti e delle quattro funzioni, e la sua personalità è il risultato della tensione tra opposti e della tendenza all'equilibrio, che, come ricorda lui stesso, varia nel corso della vita. Il tipo non è una cosa statica, si modifica nel corso della vita. Io indubbiamente ero caratterizzato dal pensiero. Ho sempre pensato fin da piccolissimo e avevo anche molta intuizione e una certa difficoltà col sentimento, e il rapporto con la realtà non era dei più brillanti. Mi trovo spesso sfasato rispetto alla realtà delle cose. Ma cos'è la realtà in un periodo in cui la fisica quantistica dà una nuova visione della materia? Per Pauli è certamente anche quella degli spettacoli in abiti discinti della ballerina americana Josephine Baker, meglio conosciuta alla francese come Josephine Baker, che in quel periodo si esibisce nei locali notturni tedeschi, vestita solo col suo celebre gonnellino di banane. Je m'en vais danser, je m'en vais au bar. C'est aujourd'hui jour de grand carnaval, trompette et tambour sonne le blanc le bas, et tout le pays va danser la samba. Ah, chiquite madame de la Martinique, si c'est le carnaval, l'occasion est magnifique. Chiquite madame, je vous abandonne, je vous prends par le bras et je m'en vais avec. Arrivare a lezione al mattino presto non è facile per Wolfgang dopo aver passato tutta la notte fuori a far baldoria. Ma la sua non è un'intelligenza normale, così non ha difficoltà a mettersi al pari degli altri studenti. A volte addirittura trova il modo di lavorare di notte, quando è sufficientemente sobrio. Sommerfeld, il suo professore, nonostante Pauli diserti parte delle sue lezioni, gli chiede di diventare suo vice assistente. Non è facile avere a che fare con lui, il suo carattere è piuttosto singolare. Celebre la sua frase quando si trovava di fronte a una teoria irrilevante che non meritasse nemmeno di essere argomentata. Non è neppure sbagliata. Durante quel periodo da vice assistente ha anche il piacere di correggere gli elaborati di Werner Heisenberg, futuro premio Nobel per la fisica, di cui diventerà presto amico. Hanno una passione in comune, quella per la fisica, ma un modo diverso di intendere il divertimento, come scriverà lo stesso Heisenberg. A me piaceva la luce del sole. Andavo in montagna o a nuotare e spesso mi accampavo per qualche giorno sulla riva di qualche lago bavarese. Wolfgang, invece, era un essere notturno. Prediligeva la città e passava la sera nelle vecchie osterie, nei caffè, dopodiché si dedicava alla fisica fino a tarda notte, applicandosi con grande concentrazione e buon esito. Ma la tesi di dottorato di Pauli adesso lo mette a contatto con un altro grande fisico, Niels Bohr, colui che ha dimostrato come l'atomo sia una sorta di sistema solare in miniatura, dove gli elettroni, come pianeti, gravitano intorno al nucleo, che è un piccolo sole centrale, all'interno però solo di certe orbite consentite. A ciascuna orbita, Bohr assegna un numero, che chiama numero quantico principale, sostenendo che bastano tre numeri quantici per individuare la posizione dell'elettrone all'interno dell'atomo, proprio come per individuare la posizione di un oggetto nello spazio bastano le tre dimensioni. Quali immagini iconiche era riuscito a evocare? Una fusione memorabile del grande e del piccolo, dell'universo e dell'atomo, del macro e del microcosmo. La cosa porta Pauli sull'orlo dell'esaurimento. Finalmente, nel dicembre del 1924, arriva la soluzione. I numeri quantici non sono 3, ma sono 4. E due elettroni dello stesso atomo non possono mai avere gli stessi 4 numeri quantici. Da qui il famoso principio di esclusione. Si passa dal 3 al 4, di nuovo. Inoltre, altra scoperta rivoluzionaria e sconvolgente per l'epoca, al quarto numero quantico non si accompagna nessuna rappresentazione visiva. È giunto il momento per la fisica atomica di dire addio al tentativo di visualizzare ogni cosa con immagini correlate al mondo in cui viviamo. E Pauli comincia a riprendere un certo interesse per la vita, come racconta Miller. Tutti rimasero meravigliati quando nel 1929 decise di sposare Kate Deppner, una ballerina di cabaret, incontrata durante una delle sue evasioni nel Demimonde di Berlino. Stare meglio è solo un'illusione. Il matrimonio dura alcuni mesi. Questo fallimento non aiuta i suoi nervi, particolarmente compromessi dal grande lutto familiare avuto solo l'anno precedente, quando la madre si suicida. Inoltre, proprio quell'anno gli viene proposto di trasferirsi a Zurigo. Ancora non sa che proprio a Zurigo incontrerà chi potrà essergli d'aiuto per uscire dal baratro in cui si sente sprofondare e che gli darà nuovi stimoli per i suoi studi. La sua vita privata è decisamente in frantumi. Nonostante questo, la fisica è il suo primo pensiero. Sono gli anni in cui scopre che nell'atomo, oltre all'elettrone, al protone e al quanto di luce, esiste un'altra particella, alla quale Enrico Fermi, qualche anno più tardi, darà il nome di neutrino. Successi e risultati professionali, ma delusioni e tristezze personali. Non smette quindi di fare la vita notturna e di bere. Nel 1932 è pericolosamente depresso. Il padre gli consiglia di far visita al celebre psicanalista svizzero, Carl Jung. Pauli sente che a questo punto ne ha davvero bisogno. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Destini incrociati. È il 1932. Il fisico Wolfgang Pauli ha già scoperto il principio di esclusione e l'esistenza di una quarta particella nell'atomo, il neutrino. Grandi lodi dal punto di vista professionale, ma la sua vita privata è un disastro. Arrivato sull'orlo dell'esaurimento, decide di seguire il consiglio del padre e va a far visita allo psicologo più famoso dell'epoca, Carl Jung. A Pauli piace sempre essere ben informato. Così, prima dell'incontro con il medico svizzero, decide di leggere alcuni dei suoi scritti, concentrandosi soprattutto su tipi psicologici. Sua abitudine è segnare con una matita le parti di uno scritto che gli interessano particolarmente, con una linea se abbastanza interessante, con due se molto interessante, con tre se è decisamente interessante. Come racconta il professor Arthur Miller, i passi che Pauli sottolinea con tre linee sono quelli in cui si riconosce, soprattutto uno, quello del tipo introverso, che lo psicologo descrive così. Il suo giudizio appare freddo, ostinato, arbitrario e privo di riguardo. Solo con difficoltà egli può prodursi ad ammettere che quello che è chiaro a lui può non essere ugualmente chiaro a tutti. Se finisce tra persone che non riescono a capirlo, procede a ricavarne un'altra prova dell'abissale stupidità dell'uomo. Può sfociare in uno scapolo misantropo dal cuore di fanciullo. Appare scontroso, chiuso, altero e ha un vago timore dell'altro sesso. Non ci sono dubbi. La personalità che Jung descrive è proprio quella di Pauli. Quando questi bussa per la prima volta allo studio dello psicologo, sa che è capitato nel posto giusto, come scrive lui stesso a un amico. Mi è più facile riuscire in campo accademico che con le donne. Dal momento che per il signor Jung vale semmai il contrario, mi è sembrata la persona più adatta a prendermi in cura. Un lunedì di gennaio all'ora di pranzo, Wolfgang varca la soglia dello studio di Carl Jung. Il sole filtra smorzato dalle finestre policrome con raffigurazioni di scene mitologiche. E il dottore è seduto su una poltrona al fondo della stanza. Al suo fianco un tavolino con montagne di libri. Sono libri di storia, filosofia, alchimia, che possono servire per la consultazione durante la seduta con i suoi pazienti. Paoli può scegliere se sedersi sulla poltrona che dà sulla finestra con vista sul lago o quella che guarda la libreria zeppa di volumi interessanti. La scelta è presto fatta per uno come lui. Alla dolce malinconia dell'acqua sceglie lo stimolo intellettuale della lettura. Ecco come ci racconta Miller di quel primo incontro. Quando è entrato per la prima volta nel mio studio, ricorda Jung, ho sentito soffiare il vento del manicomio. Dopo essersi incontrati quella volta, cominciò la terapia che andò avanti grosso modo dal gennaio del 33 all'aprile del 34. Durante quel periodo Paoli raccontò 355 sogni. Jung era entusiasta, perché contenevano una stupenda serie di immagini archetipiche, come disse in una conferenza fatta sui sogni di Paoli. Il mezzogiorno di ogni lunedì i due si vedono per un'ora. Jung è estasiato da tanto materiale arcaico in un unico individuo. In una conferenza tenuta a Londra qualche anno più tardi, porterà ad esempio alcuni di questi sogni, menzionando il sognatore come un grande scienziato, un giovane uomo assai celebre, ma senza mai rivelarne l'identità. Non è difficile capire che la parte femminile in Paoli, cioè l'inconscio, è relegata in una posizione di subalternità. Questo probabilmente per permettere alla scienza di svilupparsi. Jung vuole aiutare Paoli a riequilibrare il tutto. Il 4 per lo psicologo è il numero archetipico della psiche umana, più del 3, poiché nel 4 emerge anche il lato femminile. Jung lo fa riflettere su questo. L'incontro tra i due studiosi porta a una specie di fecondazione spirituale per entrambi. Paoli comincia a credere che nasciamo con specifici principi di organizzazione nella nostra mente e che gli archetipi fungano da collegamento tra le percezioni dei sensi e il mondo intorno a noi. Anche il retroterra della fisica ha carattere archetipico. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. Oh, that was so real. Oh, that was so real. Oh, that was so real. Sempre alla ricerca di una base scientifica al suo metodo, Jung, grazie all'incontro con una mente brillante come quella di Paoli, comincia a riflettere sulla rivoluzione che ha colpito la fisica e il suo paziente speciale. E sente che esiste qualcosa di simile anche per la psicologia. Comincia a pensare che le cose non accadono solo in successione, ovvero una dopo l'altra secondo nessi di causa ed effetto. Comincia a pensare che oltre ad esserci un rapporto verticale, ce ne sia uno anche orizzontale. Come se tutto ciò che avviene nel mondo in un istante facesse parte di una stessa immensa trama. E si fa più chiara in lui l'idea della sincronicità, una delle idee migliori che gli fosse venuta in mente, come dirà lui stesso più tardi. C'è un aneddoto esemplare che la dottoressa Rosiello riassume così. Successivamente, quando lui comincia a occuparsi di questo tema e diciamo l'evento clou che lo porta poi a portare avanti tutta la sua teoria, è quello che gli accade con una paziente che lui descrive come molto difficile, con la quale fino a quel momento, dopo un po' di trattamento, vale a dire qualche anno di trattamento, non era successo nulla. Lui dice che questa paziente era molto difficile da trattare perché era molto razionale, cercava sempre la causa naturalistica delle cose, quindi lui non riusciva a fare un trattamento efficace. Questa paziente arriva una mattina e gli racconta un sogno in cui ha ricevuto in dono uno scarabeo d'oro. Mentre la paziente sta raccontando questo sogno, Jung dice: io sono seduto voltando la schiena alla finestra, sente qualcosa che urta contro il vetro della finestra. Fuori dalla finestra c'è un insetto ed è quanto di più simile esista dalle parti della Svizzera a uno scarabeo d'oro, dirà Jung. Da quell'evento, certamente non legato a un nesso di causa-effetto, la sua paziente comincia a migliorare. Jung adesso non ha difficoltà a spiegare lo scarabeo come simbolo di morte e rinascita, poiché è intervenuto un segno concreto a supportare le intuizioni che comparivano nei sogni di una donna che aveva sempre avuto bisogno della realtà. Come dice Jung stesso, la verità è che abbiamo tutti bisogno di più psicologia, se vogliamo salvarci. Abbiamo bisogno di più psicologia. Abbiamo bisogno di capire meglio la natura umana, perché l'unico vero pericolo esistente è l'uomo. Gli esempi che lo psicologo fa sono moltissimi al riguardo, tentando a supporto della base scientifica della sua idea un'analisi statistica di eventi acausali. Psicologia e scienza dialogano, si intravede una possibile unità tra spirito e materia. Il destino ha compiuto il suo obiettivo con Jung e Pauli. Pauli vince il premio Nobel per la scoperta del principio di esclusione nel 1945. Nel frattempo, non smette di iscriversi con Jung per trovare quel linguaggio comune tra psicologia e fisica. Nel 1952 pubblicano due saggi in un unico volume dal titolo Natura e Psiche. Il saggio di Pauli applica il concetto di archetipo alla costruzione delle teorie scientifiche di Keplero. Jung nel suo saggio per la prima volta definisce la parola sincronicità. Come ammette lui stesso, si era limitato per 20 anni ad accennarne solamente il concetto, perché riteneva di essere scientificamente impreparato. Adesso, dopo lo scambio epistolare con l'amico fisico, si sente pronto. Come ci dice Filomena Rosiello, l'obiettivo di Jung è di mettere in contatto l'uomo con l'anima del mondo. Jung vuole portarci in questa dimensione per dirci che l'essere umano non deve essere considerato nelle sue manifestazioni, nei suoi disagi, nell'evoluzione della sua vita, non deve essere considerato come un ente a sé, ma come direttamente interagente con tutto quello che gli sta intorno, non solo della sua realtà più vicina, ma anche di quella più lontana e anche di altre relative ad altre culture. Ecco perché poi c'è la teoria degli archetipi. La psicologia di Jung fa luce su come Pauli giunge alla sua prima grande scoperta circa il principio di esclusione, poiché gli ingredienti del suo pensiero cosciente hanno dato energia agli archetipi del 3 e del 4, dando così inizio alla sua intuizione. Insomma, non c'è solo la logica. L'influenza sulle generazioni future del concetto di sincronicità, inoltre, è stata enorme, non solo dal punto di vista scientifico e psicologico, ma anche culturale. Nel 1983, i Police gli dedicano un intero album, uscendo con Synchronicity. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.